第四段。 Dalet. Achoti. Hineni achi. Mi hen? Lo yadati. Mi hu? Lo yadati. Hayada'at mihem? Lo yadati. Hayada'at mihi? Lo yadati. Hayada'at mi'at? Mi anochi? Lo yadati. Halo yada'at mi'at? Lo yada'at davar. Avi, Dina lo yada'a davar. Gam lo yada'a mihi.